condivido la scritta anonima comparsa in questi giorni su un muro milanese. Dice: Veltroni, Rutelli, Imbroncelli. Con palese bonomia, ma con qualche debito formativo in ortografia, avrebbe voluto salvare la rima e scrivere Imbroglioncelli. E invece gli è venuto fuori questo Imbroncelli che, ammettiamolo, rischia di sviare il senso del messaggio. Non condivido e non capisco. Sarebbe stato molto più semplice, ortograficamente sicuro, invertire i primi due termini e scrivere Rutelli, Veltroni, Imbroglioni.